as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qua. Oggi ad Il Pane e le Rose non potevamo che dedicare questa puntata allo sciopero dei corrieri che lavorano per Amazon, delle cooperative di Amazon. C'è stato venerdì 18 aprile lo sciopero, che in realtà è uno sciopero nazionale, ma noi abbiamo seguito chiaramente lo sciopero che si è svolto nelle due sedi di Amazon principali, che è la prima a Crespellano, che alle 6:30 c'è stato il primo presidio, e poi c'è stato il secondo presidio a Calderara. A Calderara abbiamo colto l'occasione di intervistare il funzionario della Filt, che è stato tra gli organizzatori di questo sciopero. Ricordiamo a tutti che erano lì per scioperare per il rinnovo del contratto nazionale di secondo livello che unifica tutti i corrieri che lavorano per le cooperative che lavorano per Amazon. Amazon non ha i propri corrieri, ma utilizza delle cooperative, tante cooperative, e nel 2021 sono riusciti ad ottenere questo contratto interno nazionale, e per questo rinnovo che stanno scioperando. E poi sentiremo perché nell'intervento che è stato fatto da Carlo, da Vincenzo, un mio grandissimo amico e compagno, con me abbiamo fatto tante lotte insieme, e poi anche Edoardo, che sono sempre delegati della Filt, sentiremo loro, e a loro adesso dedichiamo un pezzo bellissimo degli ultimi Pane e Rose, che ci sta alla grande, veramente. Poi sentiremo le interviste e dopo un altro pezzo bellissimo, Vampiros, ricordando sempre che i padroni sono dei vampiri, e poi ci sentiremo per le conclusioni. Yeah. Allora, siamo qui davanti a Amazon, ci sono i corrieri qui della cooperativa che sono in sciopero. Stamattina c'è stato un presidio a Crespellano e adesso siamo qui. Io sono venuto a Calderara, sono riuscito a venire qui, ho fatto la notte ieri, sono riuscito a venire qua con voi. Adesso intervistiamo due dei partecipanti a questo presidio. Sì, buongiorno a tutti, Carlo Parente della Field CGL di Bologna. Sì, il funzionario. Sono il funzionario che segue Amazon. Allora, raccontaci un po' di questa avvertenza, com'è nata, da cosa è dovuta, perché siete qui a scioperare? Oggi c'è uno sciopero nazionale, unitario, di CGL, CISL e UIL per chiedere il rinnovo dell'accordo integrativo nazionale che si applica a tutti i lavoratori che fanno le consegne per conto di Amazon in appalto. Ok. In questa filiera abbiamo un accordo integrativo nazionale che appunto regolamenta sia dal punto di vista normativo che economico le condizioni di questi lavoratori in appalto. L'accordo è scaduto alla fine del 2024, noi stiamo facendo determinate richieste e anche le controparti datoriali ne stanno facendo altre. Per essere sintetico, le nostre richieste sono un aumento giusto delle retribuzioni e in particolare l'inserimento di una nuova procedura che oggi non esiste, che prevederebbe la sospensione del servizio in caso di allerta meteo rossa emanata dalla Protezione Civile. È una cosa che si rende necessaria perché i tempi stanno cambiando, ci sono cambiamenti climatici, il nostro territorio in particolare è stato flagellato in passato da situazioni come esondazioni e situazioni climatiche estreme. Serve una procedura che tuteli la salute e la vita stessa dei lavoratori, che non può essere subordinata all'interesse economico delle aziende di andare a consegnare i pacchi di Amazon. Siamo d'accordissimo. Poi per il resto, altri punti in cui avete rotto? Le controparti datoriali chiedono in particolare di reintrodurre l'utilizzo delle ferie per coprire le rotte annullate. Che cos'è una rotta? È un giro di consegna. Amazon, essendo particolarmente, diciamo così, bravo, no, nell'organizzare il lavoro, può capitare che la mattina stessa, quando il lavoratore si presenta al lavoro, gli dicono che il suo giro non c'è, perché magari è stato distribuito ad altri corrieri. Fino al 2021 le aziende utilizzavano le ferie per coprire queste giornate dove il proprio giro era stato distribuito a qualcun altro. Noi nel 2021, con l'accordo nazionale di cui parlavo prima, avevamo invece introdotto la regola che quelle giornate devono essere retribuite dalle aziende. Ottimo. Oggi, a distanza di soli 3 anni, le controparti datoriali ci tolgono di togliere quella regola lì, ci chiedono di toglierla e quindi di tornare all'utilizzo delle ferie. Altra questione che chiedono è eliminare dall'orario di lavoro i tempi cosiddetti accessori, cioè i tempi che un autista impiega per prendere in consegna il furgone la mattina al parcheggio e per restituirlo la sera. Stiamo parlando di un minutaggio che è effettivo lavoro, perché il lavoratore che prende in consegna fa le proprie operazioni e poi va a caricare nelle station, che sono i magazzini di Amazon, sta lavorando a tutti gli effetti. Escludere questi minuti dall'orario di lavoro è inaccettabile. La domanda che ti faccio è: ma voi non avete anche nel vostro contratto della flessibilità? Perché loro vogliono prendersi le ferie se non avete una flessibilità voi di orario? Come se noi metalmeccanici, per esempio, abbiamo una flessibilità di orario, abbiamo delle ore in più da fare, delle ore in meno da fare. Voi non avete una cosa del genere nel vostro contratto? Non lo conosco bene. No, non abbiamo un sistema di banca ore oppure un sistema disomogeneo di ore di lavoro, no. Abbiamo un calcolo, ad esempio, su base mensile delle ore di straordinario. Okay. Quella può essere forse intesa, ma non è una flessibilità, non abbiamo mai disciplinato nulla in termini di flessibilità. Perché loro, questa cosa qua delle ferie è molto grave, perché nel senso che un lavoratore si trova, perde una corsa e di usare le sue ferie è veramente inaccettabile. Anche perché non stiamo parlando di cali di lavoro, un'azienda che è in difficoltà, che non può lavorare. Ci sono gli ammortizzatori sociali, può capitare che si utilizzino per tutti i lavoratori, magari a rotazione, le ferie accantonate, ma quelle sono situazioni diverse da quelle che abbiamo noi in Amazon. Le rotte annullate la mattina non sono cali di lavoro, certo. È una rotta che è stata redistribuita a qualcun altro. Come il tempo, quello che voi dedicate, che state aspettate la persona che scende, cioè insomma il tempo passato in coda, no? Immagino che loro ve la vogliono mettere come una pausa, che non è una pausa, avete pienamente ragione. No, sei a disposizione, ma questa disciplina noi ce l'abbiamo già in altri settori del trasporto e ce l'abbiamo anche in tutti gli altri spedizionieri che fanno sempre consegne, certo. Magari non per Amazon. Ma la cooperativa che lavora qui, perché voi non siete dipendenti, cioè voi non siete dipendenti Amazon, siete sotto delle cooperative. Come si chiama la cooperativa che assist? Com'è il nome? Allora, Amazon si è data un certo assetto. Okay. Tutti gli autisti sono in appalto, certo. Sono in appalto a più società. Ecco. Faccio l'esempio, noi adesso siamo in sciopero davanti al magazzino di Amazon di Calderara di Reno. In questo magazzino ci sono 5 società che lavorano, che fanno 5. Le consegne, per un totale di circa 250 lavoratori. L'altro magazzino di Amazon è la provincia di Bologna, che è quello di Valsamoggia, anche lì ci sono altre 5 aziende per un totale di circa 350 lavoratori. Su base nazionale stiamo parlando di oltre 100 aziende che lavorano. A tutte queste aziende si applica quell'accordo integrativo nazionale, certo. Di cui parlavo. Questo è stato, meno male che siete riusciti a fare un unico accordo, che esatto. Non è stato semplice. Per avere un'omogeneità dei trattamenti a tutti questi, più o meno stiamo parlando di 12-13 mila lavoratori su base nazionale. Ecco perché questa è una battaglia nazionale, una battaglia importante che riguarda tutti. Siete riusciti a fare questo, che è stato un grande passo, perché anni fa mi sembra che non era così, se non mi sbaglio. Poi fino al 2021 avevamo una situazione disarticolata, perché potevi avere una singola azienda con degli accordi sindacali, perché c'è il sindacato, e in un'altra invece non c'avevi nulla, quindi già la conquista del 2021 è stata importante. Oggi però noi dobbiamo, perché ce lo chiedono i lavoratori, perché è giusto in un settore come questo che è in espansione, chiedere dei miglioramenti che non, certo. Sono solamente legittimi perché li chiediamo con i lavoratori, ma sono giusti, e i lavoratori oggi in sciopero stanno dimostrando che pretendono queste cose qui e utilizzano gli strumenti sindacali che abbiamo, quello principale è quello dello sciopero. Grazie mille. Abbiamo qui Vincenzo, lavoratore Vincenzo. Delegato. Sì, RSA ed RLS. Sempre della Filt. Sì, lavoro per una società di Crespellano, Valsamoggia, che qui, è la E-Log. Sono qui da stamattina alle 6:30 che siamo fuori per far valere questi nostri diritti. Anche perché per aggiungere qualcosa a quello che diceva Carlo, che è il nostro funzionario che sta lavorando veramente, veramente forte e bene, noi abbiamo chiesto delle briciole, perché noi abbiamo chiesto un aumento della trasferta per pareggiarci a tutto quello che è il settore dei trasporti, non ci è stata concessa, ci è stata fatta una proposta ridicola con scadenza 2028. Di quanto? Di 1,50 euro da qua al 2028. Oh, come il governo Meloni. Nel 2028 1,50 euro cosa varrà? Noi non abbiamo chiesto neanche un decimo di quello che è stata l'inflazione degli ultimi anni e ci viene detto che non se lo possono permettere. Chi è il più forte spedizioniere che abbiamo nel mondo? Chi solo prima consegnava Amazon, invece adesso consegniamo Amazon, Decathlon, Intimissimi, Prozis, eccetera, eccetera, eccetera, sta prendendo in mano tutto. E volevo dire che comunque è un punto molto grave quello che diceva prima dell'allerta rossa, perché noi più volte l'abbiamo fatto presente che nelle zone c'era un grosso problema di meteo, quindi non c'è mai stata, stava succedendo un po' di... non c'è mai stato dato atto di questo. Io che faccio la montagna, la mattina naturalmente io me la guardo la mia zona, e dopo che io mi presento in magazzino gli faccio vedere che lì è prevista bufera e vedere che non viene fatto niente, almeno se ci sarà una regola possiamo far vincere la nostra voce. Oggi siamo qua in presidio, sì. È riuscito, c'è un sacco di giovani, sì. Un sacco di ragazzi. La sfortuna è stata data dal maltempo di stamattina, perché sennò Crespellano avuto... è andato un po' peggio perché pioveva. Sì, perché noi a Crespellano eravamo già pronti per le 6:30. Certo. Purtroppo io sono RSA, quindi anche col mal di gola e la tosse sono venuto. tanti ragazzi sono a casa perché non stanno bene, però sarebbero stati qua con noi a lottare. Guarda che c'è un sacco di gente, è il presidio, non si possono fare i picchetti, no? Di DL sicurezza. Questo è un presidio, non è un picchetto, diciamo, a chi ci ascolta. No, non è un picchetto, è un presidio. Però... noi siamo qua a controllare che tutto vada come deve andare e che non escano pacchi, anche se purtroppo abbiamo notato che Amazon è corso ai ripari. Cosa perché abbiamo provato a guardare gli ordini da ieri, non si poteva ordinare niente per oggi, tutto deviato a sabato. Chi aveva le consegne in consegna sabato, in consegna oggi, scusate, ce l'ave è stata posticipata a sabato. Sì. Erano già per, infatti lo si può notare da quanto poco sono insistenti per entrare. Sì. Però va bene così. Va bene così, gli abbiamo fatto vedere che se vogliamo. E non sta uscendo nulla, non sta uscendo. Non ci sta provano, uscendo ci provano, ma non escono. Ed è gente che comunque io mi chiedo se non ha capito che lo stiamo facendo per loro. Non so se l'hanno capito questo. No, perché la cosa che a me dispiace tanto è che la gente non capisce che quello che stiamo facendo noi oggi è per portare di più anche nelle loro di tasche. Lo so, e purtroppo questo purtroppo non... i grumiri sono tutti uguali. Perché io posso capire, ti dico la verità, i tempi determinati, ma gli indeterminati no. Uno perché è andato fuori rotto a ubriaco marcio a prendere della roba e quant'altro. Era con la Deco quello lì, eh. Ah, ok. Fenomeno. Insomma, sono situazioni che si creano qua di tensione davanti al presidio, però i ragazzi sono tranquilli, sono precisi. Se hai piacere ti posso far parlare anche sì, con un dai, altro. Andiamo. Edo! Edo! Edo! Hai voglia di parlare? Siamo qui di Radio Città Fucigo, il Pane delle Rose. Bene. Siamo solidali con voi. Bene, siamo grazie. Sempre stati, siamo qui anche a Crespellano. Come sta andando? A me sembra che stia andando molto bene, devo dire che c'è un tu livello... lavori qua o Crespellano? Io lavoro a Crespellano. Ah, ok, stamattina è stato brutto tempo, vabbè, però quello non aiuta e bisogna dire che spinge molta gente a stare a letto, però già il fatto che non siano andati a lavorare è già tanto. Poi il presidio, il mio parere, specialmente quando è di settore, è sempre la cosa più importante, però era importante far sentire l'assenza è una presenza in un certo modo, perché qua siamo a un livello pericoloso, proprio perché l'ho ribadito stamattina, da parte datoriale degli Assoespressi c'è stata un'arroganza nel porsi al tavolo delle trattative e nel pretendere le loro cose e sminuire le nostre, proprio perché non c'è intenzione di ascoltarci, non c'è intenzione di considerarci persone. Questa è la cosa triste. È la cosa veramente triste. Siamo arrivati veramente che ogni singola azienda ha le proprie problematiche, però c'è questa costante comune. Noi siamo interscambiabili per loro. Certo. E la cosa che dà ancora più fastidio è che le pretese aziendali devono essere attuate subito e ora. Certo. Le loro, quelle che sono per loro concessioni, invece devono essere elargite e diluite il più possibile nel tempo. Come l'aumento salariale ridicolo di 1,28 euro, quando vi vogliono dare? Cioè... si era proposto di arrivare nel 2028 a 24 euro. Quando noi 24 chiesto, euro? E noi avevamo chiesto 25 euro come base di partenza. Cioè minimo. Che è poco. Che avete chiesto poco, siete stati anche molto molto gentili. Ma diciamo. Per questo perché in realtà nel precedente accordo noi abbiamo posto in realtà una barriera, cioè non una barriera, un obiettivo su cui altre realtà poi si sono basate singolarmente per arrivare magari ai 25, 28. Quindi noi volevamo porre di alzare l'asticella per poi tornare di nuovo. Certo. Ed dà fastidio che per loro è sempre tutto diluito nel tempo e poi no, non è possibile. E quindi la cosa importante è che siete compatti, perché a livello nazionale questo sciopero, stanno scioperando a Milano, a Roma, ormai dappertutto, ovunque. Sto un po' seguendo i colleghi. E questa è la cosa importante. Certo. Adesso sentiamo un po' degli interventi. Ti ringrazio e noi siamo sempre con voi al Pane delle Rose. Grazie, perfetto. Mi raccomando. E buona giornata, ciao. No se os intento, baixo o astro mudo batendo asas na noite calada veñen en bandos con pés de veludo chuparon sangre fresco da manada. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas, traen el ventre de esposos antiguos, mas nada os prende las vidas acabadas. Ellos comen todo, ellos comen todo, ellos comen todo y no dejan nada. Ellos comen todo, ellos comen todo y no dejan nada, nada de nada. Echando miedo con manos vendidos, oen sus gritos na noita papada. Se hacen los fosos víctimas de un credo, e non se esgota o sangre da manada. Son los mordomos do universo todo, amos a fuerza, donos en ley. Enchen las tuyas, beben viño novo, danzan a ronda no pinal do rey. Ellos comen todo, ellos comen todo, ellos comen todo y no dejan nada. Ellos comen todo y no dejan nada, nada de nada. Ellos comen todo, ellos comen todo, ellos comen todo y no dejan nada. Ellos comen todo y no dejan nada, nada de nada. Nada. Vampiros. Eh sì, lo spiega benissimo Vincenzo, come queste cooperative e questa associazione di cooperative ormai ha in mano una buona fetta delle spedizioni di tutta Italia. Già Amazon è uno dei più potenti, ormai sappiamo la potenza di Amazon. Eppure, avete sentito, non vogliono tirare fuori i soldi, non vogliono monetizzare il tempo che uno passa in coda, il tempo che uno aspetta di consegnare il pacco, che certamente non è una pausa, e addirittura se si annulla una coda, una corsa, praticamente devono prendersi delle ferie, e ci sono anche altre cose. Questo è inaccettabile, ma sicuramente era da aspettarsi. Nel momento in cui nel 2021 sono riusciti i sindacati a ottenere questo contratto di secondo livello a livello nazionale, che riesce a raggruppare tutte le cooperative che lavorano per Amazon, era chiaro che adesso partono l'attacco e stanno cercando di dividere il fronte, stanno cercando di non rinnovare questo contratto come i lavoratori chiedono, ma continuamente a bersagliare i lavoratori di richieste assurde che vanno a peggiorare le loro condizioni di vita, che ricordo a tutti che il Corriere di Amazon, come il Corriere di tutte le altre associazioni, cioè gli altri gruppi di spedizione, di logistica, insomma, è un lavoro durissimo. Cioè stare tutto il giorno in giro con il furgone, soprattutto nelle città, per non parlare di Milano, Roma e altre città grandi, ma anche Bologna, non scherzo, è veramente una cosa stressante. Abbiamo visto che sono tutti giovani quelli che lavorano per Amazon, è un lavoro che fanno i giovani, ed è giusto che vengano retribuiti degnamente, e non vogliono assolutamente cedere diritti, soprattutto in questo momento in cui fondamentalmente il lavoro c'è, ce n'è anche tanto. Ecco, sono stati combattivi, c'è stato un presidio, avete sentito dalle interviste, che insomma è un presidio molto molto sentito, molto partecipato, pieno di giovani, lo ribadisco, questo ci fa ben sperare. C'è stata una battaglia, una lotta che è stata nazionale, c'è stato dei presidio in tanti posti d'Italia che sono tutti andati bene, e solo adesso è iniziata la battaglia di Amazon, c'è bisogno di una prospettiva politica oltre che sindacale, speriamo che si riuscirà a trovare, e noi saremo sempre al loro fianco e non smetteremo mai di lottare con loro e insieme a loro per lottare per i diritti di tutti i lavoratori. Ecco, a presto. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.